spegni quel propulsore, ascolta le parole, parole nuove, le tue, le mie, parole d'amore, sopra di quel giusto sono garanzia. L'uva, la TV io non l'accendo, la musica è il mio passatempo, più ce n'è meglio è, la vita ci guadagna. L'uva, con le miti per uso, l'uva, e giù uso, e per sempre sarà la mia compagna. Musica arricchiscimi, ogni giorno sì, ogni giorno di più, fammi sangue buono così, come sai fare tu. Con la pratica gli accordi sono posti per i miei ricordi. Reggae educa alla libertà, dando la giornata intera. Quando si va verso sera, e qui tiro metto d'Africa, e dalla mia finestra se ne va. Quando parte lo skank, passa tutto lo stress. L'uva, la TV io non l'accendo, l'uva, la musica è il mio passatempo, più ce n'è meglio è, la vita ci guadagna. L'uva, amore senza tempo, l'uva, sicuro che per sempre continuerò ad amarla. Spegni quel propulsore, ascolta le parole, parole nuove, le tue, le mie, parole d'amore, sopra di tuo giusto sono garanzia. Spegni quel propulsore, ascolta le parole, parole nuove, le tue, le mie, parole d'amore, sopra di tuo giusto sono garanzia. Musica forniscimi, ogni mezzo per ritirarmi su, e le ali ai piedi mettimi, altro che Red Bull. Degli occhi e la mia anima balla a braccia aperte nell'aria. E poi se mi capita riempio 3 minuti di sound, sound. Provo a far fruttare il mio background, e a chi non apprezza dico fai up and down, dando la giornata intera. Quando si va verso sera, qui tira un vento d'Africa e dalla mia finestra se ne va. Quando parte lo skank, passa tutto lo stress. L'uva, music l'uva, reggae music. L'uva, music l'uva, reggae music. La musica è il mio passatempo, più ce n'è meglio è, la vita ci guadagna.